attraverso sempre solo il cuore di una fiera in festa e non so che volti vedo di chi più mi attornia, di chi mi aspetta li calpesto in terra, compattati in un'unica maceria. Sui lastricati scroscianti di voci, battuti a scaglioni dai passanti, in marcia al fronte degli aperitivi, accolti da una salva di bicchieri, solo un colpo di frusta del vento nel coprifuoco dei portici spenti.